Stai ascoltando fuori o Mario cose mai cose senti, mai cose mai senti, cose mai senti. La cosa più orribile che abbia visto in vita mia. Dimmi un po', ragazzolo, tu conosci un certo Mario che abita qua intorno? Qui da Mario ce ne so 100. Oh sì, va bene, ma questo è uno che ruba. Sempre 100. Signore, non lo so, signore! Allora sei un cretino, palla di larda! Vorresti farmi credere veramente che non distingui la destra dalla sinistra? Signor, no, signore! Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Questa cos'è la palla di lardo? Signore, la sinistra, signore! Sei proprio sicuro, palla di lardo? Signor, sì, signore! E quest'altra cos'è la palla di lardo? Signore, la destra, signore! Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Non mi prendere più per il culo, palla di lardo! Bene Robin, dai, bene Robin, dai, bene Robin. Dai. Lavoratori! Chi non lavora non fa l'amor. Questo mi ha detto ieri mia moglie. Io sono concentrato. Io ho la tecnica per concentrarmi, lei lo sa. Mi fisso col cervello, penso a un culo. Sveglia e caffè, Fantozzi ragioni ruba, barba e bidet, matricola 1001 Barabis. Presto che perdo il tram. Lavoratori, se il cartellino, lavoratori, non timbrerò. Chi non lavora? Oh, oh, non sono più agile come quando avevo. Madonna, sta aspettando. Ambrogio? Signore? Avverto un leggero languorino. Sofia, e il mondo cambia colore! Io ce l'ho profumato. Ma... Vediamo. Bobby Malle. Aveva tutta la pianta zona. Bobby Malle, aveva tutta la casa verde. Io, sì, Bobby, Roberto, io insiste, un nome. Oh, l'Olanda sta avviando un atto ostile nei miei confronti perché mentre una nave battente bandiera olandese. Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Feci 2 volte il giro del mondo, non riuscii mai a capire che cazzo trasportasse quella nave. Ma forse un giorno lo capì. Droga. Bene, Allora, come sono questi asci squadri? Come sono? Che vuoi sapere? Lì l'asci c'è legale. Sì, no? È legale. Ollolanda! Oh, oh, oh. Ollolanda! I politici. A me non mi piace il formaggio. Oh. Ollolanda! Il che significa? Fa figa. Oh. Ollolanda! Sì! Si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare, puoi correre, volare, volare, volare, volare, volare, volare. E lasciami gridare. Allora, colleghi, prima di passare alla votazione finale, come abbiamo concordato, vorrei la vostra attenzione per una commemorazione. La No, no, no. Lira si impenna e la lira si impenna e la lira si impenna na, na. Biff, ciao ragazzi, come va? Hai fatto i miei compiti, McFly? Siccome pensavo che dei compiti tu ne hai bisogno lunedì... Hello, hello, non c'è nessuno in casa, eh? Usa la testa, McFly, pensa! Devo avere il tempo di copiarli. Sai che succederebbe se presentassi il mio compito con la tua calligrafia? Mi caccerebbero da scuola. E tu non vuoi che questo mi succeda, vero? E sti cazzi! La Madonna!